in onda Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. Un cordiale ben ritrovati da parte di Filippo Glorioso. Oggi giornata stupendamente bella, calda, piena di sole come soltanto noi in Sicilia siamo abituati ad avere. Cos'altro vi volevo dire? Spero che le febbrette che circolano in lungo e in largo, insomma, cominciano a scemare, e che il bel tempo, anche se fine settimana il meteo non promette nulla di buono, da domenica si ricomincia, ma siamo ancora in pieno inverno, quindi è del tutto normale. Io pregherei la regia, anzi oggi alla console abbiamo un capellone, fa parte dell'equipe 84. Lo chiamo così, alla parte tecnica. Sì, è una bella ragazza, bellissima, è una bella cosa da vedere, perché quando uno vede una bella ragazza in amore, è una cosa che uno. Allora, torniamo a essere seri. Dicevo, fine settimana ancora all'insegna del freddo, però insomma ci stiamo avvicinando a lunghi passi verso la primavera, e quindi queste depressioni anche mentali nostre che si accompagnano con il tempo, quando il tempo è brutto e plumbeo, anche noi siamo scuri dentro, insomma, e le preoccupazioni ci sembrano molto molto grandi, ingigantite. In realtà poi quando spunta un raggio di sole, uno comincia a godere della vera vita, del profumo della primavera, delle cose buone che ci circondano, delle cose belle che ci circondano nella nostra amatissima terra, e non soltanto in Sicilia. Oggi una puntata all'insegna, uno della musica con un grosso personaggio che tra poco vi presenterò, l'altro invece per un appuntamento importante con una Onlus il cui spot sta passando su tutti i canali della RAI e della Mediaset. Stiamo parlando di distrofia muscolare dei bambini, il termine esatto di questa malattia è dunque la Duchenne DOC, con l'ascolto a cura della Parent Project Onlus, che si sta occupando di questa malattia che purtroppo colpisce soltanto i bambini di sesso maschile. La patologia si chiama Duchenne-Becker, quindi dagli scopritori di questa patologia, ed è molto inficiante vedere un proprio figlio, un piccolino, insomma, non vederlo crescere, perché questa malattia poco a poco gli fa affievolire i muscoli e quindi non lo fa sviluppare fino a portarlo, speriamo, io mi auguro di sbagliarmi, fino a portarlo alla morte. Quindi momenti terribili da parte dei genitori che non vedono crescere in sana salute il proprio figlio, ma anche un bambino che possibilmente si rende conto che non è uguale agli altri bambini, e da lì tante domande e poi tantissime risposte da dare, non è semplice quasi mai darle. Per un panorama più aperto, leggendo i giornali qua e là, facendo zapping col telecomando, insomma, e passando tutti i palinsesti televisivi, dalla 7 a Canale 5, alla RAI, insomma, e anche le televisioni locali, oggi non si fa altro che parlare. Di politica. A noi la politica non ci interessa, almeno la politica becera che sentiamo dai microfoni di diversi mass media. Ci interesserebbe invece una cosa molto più seria, cioè che questa benedetta Italia, che questa benedetta Europa uscisse finalmente fuori da questo tunnel, e che vedesse in fondo questa luce per una strada migliore, per una vita migliore, ma non tanto per noi che siamo ormai sui 50, ma per i nostri figli che, insomma, si affacciano nel mondo del lavoro, ahimè, non molto facile di questi periodi, ma comunque devono instradarsi, farsi la propria famiglia, farsi la propria strada. Tutto ciò non è possibile. Bando alle ciance, io direi a questo punto di dare la linea prima devo salutare un carissimo amico, perché allora tutti i giorni non è possibile mangiare carne, mangiare verdura. Cosa vi consiglia oggi il cuoco? Vi consiglio il pesce. Dovete andare esattamente dal Perito Ittico Il Meglio del Mare, si chiama così, Perito Ittica Il Meglio del Mare. Ve lo consiglio spassionatamente. Pesce freschissimo, appena pescato nei nostri mari, a due passi da Cefalù, di Termini Imerese, di Bagheria, per cui troverete il sapore vero della nostra sicilianità, del nostro mare. Le spigole, le orate, i calamari, le insalate di mare, addirittura i sughetti preparati, sì, quelli vi vengono omaggiati dal Perito Ittica Il Meglio del Mare. Andateci ogni venerdì mattina a Castelbuono, ma anche a Cefalù, e troverete dei sughi pronti. Arrivate a casa, mettete giù la pasta e subito avete il condimento pronto. Non dovete sviscerare o snervarvi per preparare il sughetto. Oddio, cosa prepara oggi mio marito? Quindi andate da questa azienda, che è straordinaria per i prodotti che ha. E poi non solo, c'è quasi tutto pronto: gli spiedini di pesce spada, ci sono gli involtini, c'è tutto quello che serve di fresco da portare dentro la vostra bocca, a fare le papille gustative, insomma, già mi si sta muovendo qualcosa, perché è quasi ora di pranzo. E poi vi do l'indirizzo: Cefalù in piazza Cristoforo Colombo, via Vazzana numero 7. Invece l'ambulante, c'è anche l'ambulante, sì, voi siete in macchina, passate e questa del pesce passando proprio lì, è fermo a due passi da voi. Il telefono è 0921 92 22 79 ed è l'ambulante in via dunque San Pasquale. Invece a Castelbuono andateci tutti i giorni, ma soprattutto venerdì mattina, perché c'è questo sughetto in omaggio, e in dunque via Vittorio Emanuele al numero 4. Detto questo, io direi di dare la regia, breve pausa musicale, al ritorno vi presento questo ospite che per me è straordinario, oltre che un caro amico, ma è un professionista serio, un docente, una persona che ha fatto della musica la sua stessa vita. Linea della regia. To all my women, you know, my strong women. So amazing how this world was made. I wonder if God is a woman. The gift of life astounds me to this day. I give it up for the woman. She's the constant wind that fills my sail, oh, that woman. With a smile and a star, she'll protect you like a child. That's a woman. She'll put a smile upon. This morning, I got up with a scent of a woman. Just picture if you would what life would be. Ain't much good without a woman. She can nag and be a constant pain. Oh, that woman. Those hips, she's got me whipped, and it's just too hard to resist. What a woman. She'll put a smile upon her face and take you to the higher place. So don't you underestimate the strength of a woman. Such an angel when we meet. God bless the ground beneath her feet. She can take you on a high, be a comfort when you cry. But if you look into her eyes, you'll see the strength of a woman. Strength of a woman. She'll put a smile upon. Strength of a woman. Ah. Allora ragazzi, no, io stavo ridendo perché il personaggio che ho qui accanto, insomma, è molto eclettico, è straordinario, è un grandissimo musicista, è una persona che a vederlo così, insomma, lo si prende molto sul serio. Poi conoscendolo bene è anche un grande giocherellone. Vi sto parlando di un docente, insegna al Conservatorio Violino di Palermo, è da sempre un campione di violino e ha portato le sue musiche in giro per tutto il mondo, soprattutto in Italia, anche in televisione. Ecco, e mi... Pronto? Non sento più la voce. Ah, ecco, lo state ascoltando. Allora vi faccio gustare questa chicca. Mi rimetti per cortesia la musica in sottofondo. Ascoltiamo questa chicca, che è la Lusca. Sentiamo la Lusca, perché poi vi presento questo personaggio. E intanto vi voglio fare sentire, per chi non è avvezzo all'ascolto del violino, guardate che sinfonia. Questa è la Lusca. Brusca. La seconda traccia, metti il padrino. Il tango. Il tango terzo, secondo il padrino. Sì, mentre noi parliamo. Occhio a non chiudere il mio microfono, perché sennò parlo come il pesce solo sott'acqua. Allora, vi abbiamo fatto ascoltare una chicca di un brano musicale straordinario che, pensate, lo stanno danzando addirittura a Mosca. Allora, quindi Russia, è un balletto straordinario. Oggi non abbiamo il supporto tecnico, però la musica è stata scritta ed è stata quindi composta ed eseguita da uno che secondo me è uno dei più grandi violinisti italiani. Sto parlando di Mario Renzi, che ringrazio e saluto per essere qui con noi. Buongiorno a tutti, ma io mentre ascolto la tua voce, sì, non so, sono imbarazzatissima adesso a disturbare, non è che devi andare in bagno, sei imbarazzato, a disturbare l'orecchio delle persone che si sono abituate al tuo timbro così bello, pastoso, sicuro. Io, secondo me, un po' di sicurezza ce l'ho con il violino, non con la voce. Come ma ce un artista tu. Lo è a 360 gradi, dai, so che sei uno showman a 360 gradi. Sei di parte perché mi vuoi bene. Allora, parliamo del brano Rusca. Allora, tu hai scritto questo brano quando, Mario? Allora, l'ho scritto l'anno scorso in funzione di una sbirciatina via internet e i vari gruppi, balletti e cose, ma non avevo nessunissima intenzione di pensare un brano di questo genere, perché io sono più romantico, le mie composizioni diciamo che sono più classicheggianti, perché come tu hai detto prima vengo dal classico conservatorio, insegno classico al conservatorio, per cui questo genere di musica, quindi molto, questa vena è rimasta molto, insomma, no? E infatti, allora, guardando questo balletto che si chiama Show Kasachok, che tutti quanti potrete vedere queste straordinarie bellezze su internet, su YouTube, basta cliccare Rusca e ci sarà il mio brano ballato da queste stupende. Come hai fatto a allacciare un gruppo così tanto lontano geograficamente da noi? Semplice. Io intanto, guardando questo gruppo, ho pensato di scrivere un pezzo così alla russa, per intenderci. E poi ho scritto un'email al responsabile direttore artistico dicendogli che, guardando il gruppo Show Kasachok, ho pensato questo brano. Ditemi cosa ne pensate. Mi hanno mandato i complimenti e l'hanno messo su YouTube ballandolo. Con grande soddisfazione. Ma del maestro io Renzi, direi una grande emozione. Senti Mario, tu hai una lunghissima carriera, sei ancora in carriera, sei ancora giovanissimo, insomma. Grazie. Da tanti anni allieti le nostre orecchie con brani straordinariamente belli, eseguiti, voglio dire, in maniera strabiliante. Sei anche papà, questo bisogna dirlo, i tuoi figli hanno preso le tue orme. Senti, prima di parlare dal punto di vista artistico, vorrei un attimo fare una botta alla botta, insomma, è una botta la diamo invece in un altro versante, per capire il personaggio Mario Renzi, no? Che è musicista, ma è anche uomo, è anche papà, è anche marito, eccetera. Quindi quando si presentano gli artisti, la gente dall'altra parte della radio, dall'altra parte del video, quando si parla di televisione, vuole capire meglio, vuole intuire meglio, vuole avere le percezioni di che uomo, che donna è quell'artista che si esibisce, quell'attore, quel musicista, quel cantante. Come papà, sei un papà allegro, sei un papà amico, sei un papà tenero, sei un papà roccioso? Poi sai, la concorrenza, tra virgolette, lo metto la concorrenza perché tu hai tanti anni di carriera, ma io ho visto suonare tuo figlio, insomma non è male, anzi direi è bravo. C'entra voi anche concorrenza, no, amichevole, concorrenza, voglio dire. Quando mai c'è stata concorrenza fra un padre, un figlio o una figlia? E tutti quanti i genitori cosa vogliamo dai figli? Che si realizzano, che stiano meglio di noi e che non debba mancare niente. E in quanto al papà, io mi sento un papà veramente a 360 gradi, perché anche se sono stanco, arrivo a casa avendo anche bambini, figlioletti ancora piccoli, uno di 7 anni, un'altra di 9 anni, mi ritrovo, nonostante la stanchezza, non fargli capire che sono stanco, me li metto a cavalluccio e girare e correre intorno al tavolo. Senti Mario, molti artisti non riusciamo spesso a dare tutto il tempo che necessitano i nostri figli. Tu come riesci a tagliare parte del tuo tempo da dedicare alla famiglia? Qual è il tuo segreto? Intanto, quando sono a casa, anche se devo andare a lavorare, quello straccio di tempo che mi resta lo dedico a loro. Poi, quando non lavoro, di solito studio di sera, ma di giorno sono a completa disposizione dei miei figli, totalmente, perché non vorrei assolutamente vivere la mia infanzia, che il mio papà lavorava sempre e non lo vedevo mai. Per cui non mi ricordo quasi niente, che ti voglio dire, una carezza, una parola, una cosa, di queste cose non me ne ricordo. E allora come punto mi sono prefisso questo, che i miei figli si devono ricordare di me, in tutti i sensi. Questo è molto bello, ho sentito da parte tua, perché dicevo ai radioascoltatori prima, Mario Renzi, visto sul palco, è un anfitrione, insomma è una persona straordinaria, un trascinatore, uno che coinvolge, è uno che buca il video. Sei istrionico, sei uno showman a 360 gradi. Io sento solo la tua voce, manco sento le parole, proprio. No, mi affascini con il tuo timbro. Adesso non facciamo complimenti vicendevoli, cerchiamo di essere, dico, seri per quanto è possibile, perché con te non è mai possibile essere seri. Invece ti volevo chiedere, durante la tua carriera hai conosciuto tanti personaggi televisivi e anche cinematografici, tra questo Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Il tuo primo impatto con questi grandi artisti, soprattutto Franco Franchi, ma anche Ciccio Ingrassia, che gli faceva da spalla, non era da meno, è stata una coppia sposata per un'intera vita, salvo qualche momento di sbandamento, ma poi subito ricucita. Io ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente, ma già era in fase avanzata di malattia, quindi non se la sentiva più manco di cantare. Il tuo primo impatto con questi grandi artisti, che poi erano anche umili tra l'altro, ma come li hai vissuti quei momenti? Diciamo che inizialmente proprio loro ho conosciuto come personaggi più famosi a livello mondiale, perché io facevo night al Sir John, dove loro ogni venerdì, sabato, spessissimo erano là, e in compagnia di altri amici miei che erano amicissimi di Franco e Ingrassia. Infatti io quasi tutti i giorni ero in loro compagnia, in macchina, a sbrigare situazione a Palermo, gironzolare in macchina, mangiare insieme. Per cui erano come se fosse una mia seconda famiglia, per cui non avevo questo timore come sentivo quando ero con Pippo Baudo. Si creava una specie di muro, che poi pian pianino si è abbassato questo muro e siamo diventati molto amici. Bene, quindi un'esperienza straordinaria, un arricchimento maggiore sia sotto il profilo umano, perché Franco Franchi poi era molto umano, aveva molto sofferto nell'infanzia, una famiglia numerosa, era riuscito a sbarcare il lunario dentro le vie di Palermo, poi finalmente grazie a Modugno, insomma sappiamo tutta l'escalation sì, che ha. Infatti. Qual è stato un altro artista invece che tu hai conosciuto che ti ha regalato un po' di emozione, ecco, con il quale non ti saresti mai voluto staccare? Beh, io ho fatto una particina nei telefilm con Lino Banfi quando fece quella carrellata di puntate Il Vigile. Ah. E io ho suonato come violinista zingaro in quei film. Praticamente era una persona gentilissima, affettuosissima, che non sembrava quello che recitava dopo. Era una persona alla mano. Per cui questa cosa mi ha dato grande soddisfazione, nel senso di dire, ma uno pensa che siano delle montagne inaccessibili, invece poi sono molto umili, molti sì. alla mano. Beh, anche Lino Banfi ha avuto un trascorso infantile non molto edificante sotto il profilo economico, quindi ha sofferto tantissimo, al punto che raccontava un giorno, io non l'ho conosciuto personalmente, ma ho conosciuto invece Pino Ferrara, che è stato un caratterista e ha lavorato anche con Peppino ed Edoardo De Filippo, mi raccontava della storia di questo uomo che a un certo punto guardò in faccia la moglie e disse io non posso fare l'artista perché non ti posso dare da mangiare, insomma aveva messo tutto in un cassetto, tu sai che la vita artistica non è sempre rose e fiori, insomma questo tu lo insegni. Ma questo secondo me, scusa se ti interrompo, cioè praticamente è diventato proprio, come si dice, un punto che non mi ci metto io, ma tutti i grandi veramente hanno sofferto la fame, e io mi ci devo mettere, perché mio padre contadino, mia madre casalinga, se pioveva non si mangiava perché papà non poteva andare a zappare la terra, se non pioveva e c'era il sole papà andava a zappare e noi l'indomani potevamo mangiare e tu potevi studiare e potevo studiare perché mia madre si è impegnata gli occhi per farmi studiare. È molto bello quello che dici ed è anche commovente, perché di questi tempi, sai, non è facile che i figli abbiano delle riconoscenze nei confronti dei propri genitori, e questo fatto che mancasse un qualcosa in casa nonostante il lavoro duro dei propri genitori forgiano il carattere, lo forma, ti intestardisce, ti sprona ad andare sempre avanti e non arrenderti mai nella vita, non è così? Sì, infatti io mi reputo ancora oggi un cavallino rampante. Tutti i traguardi che mi sono prefisso, onestamente, forse sarà perché con noi nasce una certa stella, una fortuna, e tutte le cose che mi sono prefisso, onestamente, sono arrivate tutte puntuali. Con l'impegno, naturalmente, senza abnegazione. L'impegno, naturalmente, è fondamentale. Dovrebbe essere anche il savoir-faire, non voglio dire bravura, perché se tu non sai fare niente, manco le raccomandazioni ci vanno completamente. Se non sai fare l'ABC nel mondo dello spettacolo, nel cinema, nel mondo artistico in generale, dal comunque quadro, prima che cultura. Mi dimentico, io sì. Vorrei ringraziare Prego. Veramente tutti coloro che mi vogliono bene, perché ogni festa di piazza che io faccio le piazze si riempiono, anche se ripeto, come è stato ad Altavilla, a distanza di 20 giorni lo spettacolo nello stesso paese, riempire nuovamente la piazza con 9.000, 8.000, 7.000 persone per non me è semplice, un grande orgoglio, per semplice. Cui che devo dire, vi ringrazio, vi voglio bene e seguitemi sempre. Sicuramente lo faranno e ti seguiranno anche oggi in radio, anzi se ci sono delle radioascoltatrici o dei radioascoltatori che volessero porre qualche domanda a Mario, volessero soltanto salutare la parte Facebook, scordavo di dirvelo prima, siamo anche su Facebook, potete seguirci anche su CRM CRM Piredio, su crm@crmpiredio.it e naturalmente anche via etere sui 101.4 in modulazione di frequenza. I numeri per i vostri contatti sono lo 0921 423456 oppure il 92 32 89 o il 92 30 292. Ma lo sai che non l'hanno scritto e neanche l'hanno memorizzato. Ma non it's problem, diciamo in inglese, non è un problema. Se tutti, amano gli seguire, tutti gli speaker sono convinti che dicono il numero cose. Uno subito, pa, ma intanto diamo i numeri, così casomai vanno a giocarsi dall'otto, chissà che non vincano. Li devi ripetere lentamente. Lentamente, vabbè, allora accettiamo il consiglio di magari Mario. Qualcuno gli resta memorizzato allora, e lo fa. Allora, Mario. Siete pronti? Telefonino alla mano. Allora. Dai. Allora, CRM Line. voglio dire, a chi volesse sentirci telefonicamente può chiamare lo 0921 pausa 423456, sono conseguenziali. Basta. Oppure l'SMS 335, scrivete SMS 335 56 37251. Siamo anche su Facebook, se vi fa piacere, oppure potete interagire con noi con l'email crmpiradiomail.cp.3cefalucirm@crmepiradio.it. Senti, noi speaker siamo fatti così, non siamo professori, tu fai l'insegnante, sei in cattedra. Allora, diciamo anche ai miei amici di Facebook che metterò il contatto di questa trasmissione su Facebook. Non hai molta dimestichezza con l'inglese, vedo. No, Facebook, non frega niente. Sì. Pensa che qua, io sono scappato dall'America quando sono andato a suonare a Las Vegas, al Casino California, a San Diego, a Los Angeles. Quelli, fortunatamente il mio violino parlava la lingua internazionale. Meno male. Ed era accettato perché parlava la lingua internazionale. Ma io, sentendo parlare loro e non capire niente, mi pareva l'ora che me ne tornava a casa. Mi piace questo intercalare dalla lingua italiana al vernacolo, stupendo, meraviglioso, con l'inflessione lieve palermitana che insomma non guasta mai. Allora Mario, io ti fermo un secondo perché c'è un ospite. Sì. C'è un ospite. Allora no, fermo un attimo, devo far parlare questo ospite prima di annunciare il brano, è un ospite straordinario. Sì, baciamo la mano, eh. Forse me deve capire, io non mi scotto. Tu vuole venire me? E mi parla che vuoi la protezione. Certo. Che protezione ti posso dare? Non vedo, io a voi vi cercai. E voi mi dovete favorire. Ma io non sono nessuno. Ma una volta comandavo, ora manco mi chiacciono più. Ma quando mai? Io vivo che a capo e baciano tutta la mano. Quando vengono mi salutano tutti, baciamo le mani. Te devo salutare. Mia figlia si sposa. Vuoi restare? Resti e mangi. Se non vuoi restare, te voglio bene. Ma sape che faccio, Don Vito? E io resto e ci sono un violino. Il padrino. Ma che me facete scherzo, Don Vito? Io non ti faccio nessuno scherzo. E se vedesse che io voglio restare per suonare? Ma c'è il padrino che deve arrivare, figlio Beggio, come ti faccio stare qua? E io che ne saccio, io già ero pronto col violino per suonare il padrino per rispetto di vossia. Giustamente, una volta che sono pronto, che faccio col suo violino? Te fermo un minuto, mangi e te fermi. E allora, mettiamo un attimo da parte il padrino. Io direi a questo punto, se c'è la pubblicità della radio, mandiamo in onda la pubblicità, al rientro un brano musicale a scelta e poi chiaramente rintrodurremo il padrino per fare questa bella intervista con e questa bella musica che accompagnerà il padrino dentro i nostri studi. Va bene Mario? Va benissimo. Linea alla regia, diceva. To the end, oh, to come on. E allora, rieccoci rigorosamente in diretta. Vi ricordo che sono esattamente le 12:42:39 secondi al nostro Voce, quindi CRM Pirelli. Vi ricordo che state ascoltando Carta e Penna, programma ideato e condotto in studio da Filippo Glorioso. Sulla parte della console, dalla parte tecnica invece c'è lei, Esharawi al femminile, una bellissima donna che oggi ci sta alleviando con questa chioma fluente, insomma nulla a che vedere con Esharawi, ma io la chiamo così, ormai tutti i nostri fonici si chiamano Esharawi. Allora, vi volevo intanto presentare un'altra azienda che già conoscete, ed è Easy Chic di Spaldino Nunzio, in via Fonte di Camargia, via Geraci, a Castelbuono. Perché? Perché col freddo che c'è necessita che voi compriate, qualora non l'aveste ancora fatto, le stufe a pellet con il pellet di faggio o di abete bianco. C'è l'assistenza tecnica, attenzione, anche le stufe in zibro, andatele a vedere perché sono semplicemente straordinarie, con un liquido particolare vi riscaldano tutto quanto l'ambiente dove voi vivete durante l'arco della giornata, quindi casa vostra. Poi c'è una chicca particolare e c'è un ampio assortimento di lampadari di ottima fattura con lo sconto, pensate, del 40%. Quindi Spaldino Nunzio in via Easy Chic, si chiama così lo showroom, in via Fonte di Camar, già via Geraci a Castelbuono. Parafarmacia, e cosa serve? È la farmacia dove si va a comprare il tutto senza bisogno di ricetta medica. Tantissime sono le firme prestigiose, i prodotti straordinari come la cosmesi, viso, corpo, antirughe, antietà, viso della donna ma anche dell'uomo, oppure prodotti per l'infanzia, i presidi sanitari, anche a noleggio se volete, come le sedie a rotelle, stampelle, che speriamo che non abbiate mai bisogno. La parafarmacia è con una firma straordinaria, la dottoressa Guardivi, do il numero 0921 67 22 54, chiamate per qualsiasi necessità avete durante l'arco del giorno, oppure recatevi in via Dante Alighieri al 116 numero civico, e lì sicuramente sceglierete quello che più vi aggrada. Ringraziamo questi altri due sponsor. Allora torniamo un attimo sul discorso che facevamo prima del padrino, perché parlavo come Robert De Niro quando si trovò negli Stati Uniti, per meglio dire non Robert De Niro, agli inizi era lui, poi ci fu invece un altro grande attore che interpretò la parte del padrino. Adesso tu me lo ricorderai perché io ho poca memoria, sono anziano. No, io stavo pensando, perché tu hai fatto tutto questo teatrino, perché ti avevo offerto questa particina in questa musical musical che stiamo preparando per l'estate prossima, sul padrino, con le musiche del padrino. E allora, ma sei stato bravo, promosso. La ringrazio, maestro. Promosso. Detto da lei, insomma, è un complimento. Senti, a quali dei tanti brani che tu hai esibito, qual è il brano a cui sei molto più legato sentimentalmente, Mario? Ma secondo me è La Ciarda. La Ciarda mi ha portato tantissima fortuna. È un brano molto difficile, diciamo che è un banco prova per ogni violinista che si rispetti. E con questo brano io ho avvicinato veramente anche le persone a cui non gliene fregava niente di musica, che ti voglio dire, senza offesa, il fruttivendolo, il carnezziere, il muratore, per carità, tanto di rispetto, ma voglio dire culturalmente e musicalmente parlando, solo a quello mi riferisco. E in parecchie situazioni mi chiedono La Ciarda, per cui, perché è orecchiabile, musicabile, ballabile, insomma ti trascina. Sì, ma è difficile. È difficile. Senti, invece, dicevamo dei personaggi che tu hai incontrato nell'arco della tua lunga e florida carriera. C'è un personaggio che ti ha colpito particolarmente per il suo modus operandi, per come era fatto, come persona, come carattere? E io dico solo San Pippo Baudo. Perché San Pippo Baudo. Io ho fatto anche... Sono stato 6 mesi con lui come primo violino dell'orchestra della RAI con Fantastico 5, presentato da lui, e ho visto il perfezionismo totale di quest'uomo e il rispetto per il lavoro. Poi, fuori dal lavoro, era una persona normalissima come noi. Molto alla mano. Io l'ho conosciuto in un bar, al Bar Vanni, tu sai, Piazzale Clodio, vicino, lui frequenta vicino a Teulada, vicino Teatro delle Vittorie. Si mangia bene al Bar Vanni, si mangia bene, ma si paga anche tanto. Vabbè, ci danno gli si attesti. Paga anche tanto. No, io invece ho avuto una grandissima fortuna, ho conosciuto, purtroppo ahimè è scomparso, uno dei caratteristi più straordinari che abbiamo avuto in Italia, un imitatore meraviglioso di voci e quant'altro, imitava Celentano. Io lo ricordo in televisione, ero piccolino, ma è scomparso qualche anno con un infarto cardiaco, purtroppo. non c'è più, adesso l'amnesia mi prende, Gigi Sabani, ecco. Gigi Sabani. Eravamo grandi amici e lì al Barvanni tutte le volte mangiavamo i tramezzini o quello che c'era di preparato, di pronto, pranzare quasi mai con lui, ma anche lui, ti do ragione nel dire che quando sono grandi personaggi sono anche grandi uomini, con un carattere straordinariamente aperto, gioviale e sempre alla mano. Chiaramente a volte chi fa il comico invece in realtà poi è triste nella vita, è molto più serioso di come non lo si veda in televisione. Sei d'accordo su questo? Sì, con... sì, stavo ridendo perché mi ricordo appunto mentre facevo Fantastico che lì al bar, Littertone, Morandi, cose, è entrato Renato Zero e allora quando mi ha visto, siccome avevamo già registrato prima, mi fa: che ti offro? Disse: un caffè Hug, perché già l'ho preso. E lui mi rispose: allora è meglio che ti fai un clistere. Questa cosa mi è rimasta impressa. Ma poi Roma è stupenda come città, sì. Io ci vivrei una vita. Senti, quando tu componi le tue musiche o arrangi altre musiche, ma l'arrangiamento già è diverso, ma la composizione, cioè il partire da zero, l'estro creativo ti viene di notte, di mattina, quando il cielo è plumbeo e uggioso, oppure in splendide giornate di sole? O deve esserci un qualcosa che ti colpisce particolarmente per partire col violino, diciamo, o con la penna più che altro? Che parecchie idee mi sono venuti prima dell'esibizione, e siccome oggi, grazie ai telefonini che hanno pure il microfonino che registra, l'idea che mi viene in mente subito me la registro, perché è normalissimo che te la scordi. È come quando sogni tre numeri, poi dici: vabbè, me li ricordo, ti svegli e non ti ricordi più di questi tre numeri, per cui non puoi vincere al lotto. Io prendo questi appunti, poi magari di due o tre appunti ne viene fuori una canzone, un brano. Ma anche in macchina, durante i tragitti, viaggi, cose, mi vengono delle idee fischiettate, accendo il telefonino, li registro e poi... Quindi sul minuto, poi, insomma, cogli l'attimo, ecco. Sì, perché mi sono messo qualche volta su ordinazione a scrivere qualche brano e onestamente non è facile per me scrivere su ordinazione. Ci siamo? Tutto bene. Sì, no, ti stavo seguendo, stavo dialogando, stavo guardando quegli occhi belli, sono due donne dietro le spalle. Bella, ma io evito di guardare perché sennò mi sconcentro. Mi viene proprio, come dire, vedo il mare azzurro, blu negli occhi di queste stupende donne che sono dall'altra parte del vetro che fanno le Mi piace soprattutto il trucco, sapere almeno due ore e mezzo stamattina ha impiegato tutta a truccarsi. No, ma poverine, acqua e sapone. Allora, se io ti fermerei un attimo, perché parlare mi piace tanto. Tanto tu lo sai, poi con te, figurati, c'è una marea di cose da chiederti e un sacco di situazioni che possono essere raccontate in radio e non solo, di esperienza di vita musicale, anche familiare e di amicizie, e tante ce ne sono e tante ne potremmo dire. Io invece inviterei la regia, la nostra Sharavio al femminile, con questa chioma fluente, sembra una cavalla araba, bella, una cavallina araba, sì. Allora, di mandare un altro brano del tuo CD. Vediamo. A scelta. Vai! I know you want to say you just know you want to live in. Così potrei dire di esserti esibito con Mario Pesce. I wait to see. My Way, The Voice. Con questa musica e soprattutto con questo violino, chissà quante donne, quante coppie si sono abbracciate, baciate in questo lento avvolgente. Bellissimo. Ascoltiamola. Thank you. Allora, tra pochi secondi. Dal Madison Square Garden di New York, Ladies and Gentlemen, The Voice, Frank Sinatra. Al violino, niente po' di meno che il grande, maestoso, straordinario Mario Renzi. Ascoltando questa musica mi sono rinnamorato. Quando mai? Tu ti innamori spesso, non finisci mai di innamorare. Non dirmi che c'ho l'innamoramento facile. Senti, invece adesso bisogna essere seri, speriamo che finalmente riusciamo a metterci in contatto con il professor Luca Genovese, che è il vicepresidente di una Onlus straordinaria del Parent Project Onlus. È in linea già? Sì, buongiorno. Professore, buongiorno a lei. Buongiorno, aspetti, aspetti. Professore, aspetti un attimo perché bisogna abbassare l'audio in studio, perché sennò qui non ci capiamo. Pronto, adesso la sento benissimo. Professore, quindi grazie per aver accettato l'invito, professore. Grazie a voi, perché noi ringraziamo sempre le emittenti effettivamente che dedicano lo spazio a queste cause. Allora, professore, voi avete il vostro centro a Roma. Sì, da quando, ecco, quando è partita, quando è stata fondata questa Onlus e per quale motivazione? Allora, guardi, la sede, l'associazione in Italia è stata fondata già dal 1995, sì. E quindi ha più di 16 anni, diciamo, siamo 16-17. È stata, diciamo, siccome è Parent Project, così come si capisce un po' dalla denominazione, sì. È un'associazione nata negli Stati Uniti, Parent Project Onlus, progetto dei genitori, e quindi noi abbiamo, diciamo, il presidente Filippo Buccella l'ha importata qui in Italia, e quindi è una sezione della grande famiglia Parent Project nel mondo, dove ci sono tantissime altre associazioni in altri paesi oltre che negli Stati Uniti e in Italia. Perfetto, professore. Allora, io ho avuto il piacere e il dispiacere nello stesso tempo, perché quando si parla di bambini maschi o femmine non facciamo distinzioni, che hanno queste gravissime patologie, la cosa mi ha un po' emozionato. Io casualmente a pranzo stavo facendo zapping col telecomando ed è passato un vostro spot su Rai 2, spot fatto molto bene, devo dire, che rende l'idea di cosa significhi in famiglia avere un figlio con questa distrofia muscolare. La semplifichiamo così: la patologia vera e propria invece porta il nome degli scopritori di questa patologia. Sì, in realtà è distrofia muscolare di Duchenne. E Becker, c'è scritto qui. Becker è la variante, sì, noi facciamo, allora, sono due patologie, è la stessa. Ecco, spieghiamo così la gente capisce. Sì. Allora, professore, una famiglia, un papà, una mamma, come si accorge, quali sono i sintomi che i genitori devono cogliere quando il bambino comincia ad avere questo tipo di patologia? Guardi, i sintomi sono a volte difficili da cogliere. Sostanzialmente, anche nel caso mio, ad esempio, di tante altre famiglie, ci siamo accorti di una generale debolezza, soprattutto con nel salire le scale. Sì. Quindi una difficoltà che io mi spiegavo, per esempio, con la tenera età del bambino. In realtà questa tenera età, poi ai 3, ai 4 anni, già ancora non mi giustificava molto. E ciononostante non ci si convince a volte o non si vede, sicuramente mio figlio, come tanti altri figli, era seguito da pediatri, soprattutto sì, che non si erano accorti di nulla. E invece poi è servito un esame per fare un intervento agli adenoidi, un esame del sangue per prepararlo all'intervento, e poi, ecco, i valori di CPK elevati hanno diciamo iniziato un po' la fase diagnostica, che si è conclusa, diciamo, con questa poi diagnosi pesante. Professore, mi preme farle una domanda da genitore a genitore. Ma la cosa che mi lascia un po' l'amaro in bocca è questo: un adulto che ha la distrofia, la SLA, insomma, questo tipo di patologie, si rende conto, perché essendo adulto capisce che nel suo organismo c'è qualcosa di inficiante, c'è qualcosa di depauperante. I bambini hanno la percezione che c'è qualcosa in loro che non va? Sì, guardi, in effetti i bambini non ce l'hanno in una prima fase, sì. Poi inizia un percorso in cui i genitori effettivamente hanno un ruolo importante, perché io le racconto un aneddoto per me molto, molto intimo e molto particolare, forse è la prima volta che lo sto raccontando. Io le chiedo scusa, professore, se entro nel merito, ma è per far capire alla gente di cosa stiamo parlando. Guardi, no, assolutamente, non lo dicevo per questo, anzi è normale che le domande... No, glielo dico perché sono molto legato a questa cosa e finora non mi era capitato, ma ho piacere di dirlo. Prego, professore. Si ricorda, sicuramente lei avrà visto, come tanti altri, La vita è bella, no? Sì. Lui, questo papà nasconde in tutti i modi al figlio, facendogli vivere un'esistenza normale. Sì. Durante il film, no, si nota tutta questa trama, in realtà erano in un campo di concentramento e loro, magari, e lui gli faceva capire che sta facendo un grande gioco, no? A volte noi facciamo questo con i nostri figli in quella fase tra i 5 e i 6 anni in cui si vede una debolezza rispetto agli altri bambini. Sì. E allora facciamo, iniziamo un po' anche una finzione, a fin di bene, insomma, dopo aver superato noi come genitori la fase difficile della diagnosi, che ovviamente nel mio caso per esempio è durata almeno un anno dalla diagnosi, ci siamo un po' chiusi e mia moglie in una difficoltà anche a parlare con la gente, è comprensibile, i familiari più intimi, è comprensibile. Era una cosa che ci aveva fatto chiudere molto. Superata sì. questa fase abbiamo iniziato questo percorso, devo dire anche grazie all'associazione, perché io, ripeto, poi mi sono da allora molto speso e molto impegnato, perché ho avuto tanto dall'associazione e se dovessi dirle magari in quali modi non glielo saprei spiegare, ma è proprio un sostegno, dei punti di riferimento, avere un confronto, avere una forza di reagire. Senza ombra di dubbio. Abbiamo iniziato questo percorso, ecco, un po' di far presentare ai bambini, ecco, invece di dire che era distrofia muscolare, magari dicevamo, guarda, hai un problema nei muscoli, ma non ti preoccupare, ad esempio, perché il cervello funziona bene, quindi sarai come un bambino come gli altri, che magari l'altro non sa fare i conti bene, e tu magari non saprai correre bene. Ecco, era un esempio di quello che dicevamo, né? Quando già il bambino ha 7-8 anni, ovviamente le difficoltà accentuavano. Comincia, quindi, certo. Esatto, sì. Professore, prima di farle altre domande, in studio qui da noi c'è un grande, io sono amico di questa persona da diversi anni, di questo maestro, perché intanto insegna al Conservatorio Violino, le sto parlando di Mario Renzi, che è in studio con noi, e io desideravo, infatti ho chiesto a Mario se desiderava dire qualcosa, mi ha annuito con la testa, quindi prego Mario, vuoi chiedere qualcosa al professore, che è anche il papà di uno di questi bambini che ha questa patologia? Buongiorno professore, a lei io farei una raccomandazione a tutti coloro che organizzano manifestazione a scopo umanitario, di pensare veramente a quello che stanno facendo e non cercare di fregarsi i soldi, perché purtroppo per svariati motivi vanno a finire sempre in cattive mani i soldi che si prendono. Sì, per le capisco varie... perfettamente, ha ragione, ed è una raccomandazione che noi siamo i primi effettivamente che dovremmo fare, perché purtroppo nel mondo della cosiddetta beneficenza, dei destinatari della beneficenza, c'è di tutto, e come qualche servizio anche di qualche anno fa sulle Iene ad esempio ha fatto vedere, molti ne approfittano sicuramente. Ecco, noi diciamo che proprio per questo abbiamo cercato di prendere intanto la nostra garanzia tra virgolette nel caso nostro, ecco, è capire verso chi va la raccolta umanitaria. Noi siamo intanto un'associazione di genitori, cioè sostanzialmente certo. Fa parte dell'associazione solo chi ha un ragazzo affetto da Duchenne o Becker, e sulla pelle dei figli, certo. Insomma, siamo noi i primi a vigilare che qualcuno distragga un solo euro. Professore, sì. mi scusi un attimo, Mario è un artista, lo siamo un po' tutti, io nel mio campo, lui nel suo, la preoccupazione è che gli artisti spesso fanno della beneficenza, nel senso, sì, comprano sì. Anche, ecco, poi scoprire col senno del poi che i fondi non sono andati a finire dove in effetti c'era necessità che finissero, ma in ben altre mani e con altri divertimenti, sinceramente la cosa lascia la mare in bocca. Quindi noi siamo tutti propensi, ma si figuri, ad essere accanto alle famiglie, ai bambini, che poi, insomma, tutti siamo genitori, io, Mario, sì, insomma, sì, anche lei, per cui non era un rimprovero rivolto molto esclusiva nei suoi confronti, ci mancherebbe. Io mi univo a quella raccomandazione dicendo proprio che siamo noi quelli che intendiamo vigilare, ecco, perché siamo poi alla fine quelli danneggiati, perché la beneficenza dovrebbe andare verso le associazioni, e ce ne sono tantissime che fanno cose nobilissime. Poi c'è qualche, purtroppo, come in tutti il i furbetto casi, del quartiere, delinquente che si approfitta anche di queste cose. Sì. E questo noi abbiamo, per quello che possiamo fare noi, noi abbiamo preso tutte le nostre precauzioni e contromisure. Sappiamo chi usa l'immagine o il logo di Parent Project in tutta Italia attraverso dei controlli anche con organi di stampa, ecco. Però sappiamo, è una realtà che esiste. Mi posso solo unire alla raccomandazione che faceva il maestro prima, perché effettivamente, diciamo, è triste vedere che su queste cose ci sia qualcuno che... Assolutamente, ma poi noi non abbiamo dubbi che voi che siete genitori, insomma, sarebbe deleterio, peggio dei nazifascisti dei lager, insomma, vi comportereste in maniera proprio deleteria. Professore, senta, mi premeva farle una domanda. La ricerca scientifica in atto in Italia verso questa patologia mi pare che non ha dato ancora grandi risultati. A che punto siete? Diciamo che qui viene una frase, neppur si muove, no? Nel senso che, meno male. Nel senso che... Galileo Galilei. Sì, esatto. E sostanzialmente le posso dire che non c'è nulla di risolutivo, però avere la distrofia di Duchenne ora rispetto ad averla 10 anni fa è tutto un altro mondo. Ci sono dei trattamenti comunque che intanto... con dei cortisoni che attenuano la gravità della patologia e la sua degenerazione, insomma, che è una malattia degenerativa. Sì. E si cominciano a profilare anche dei primi trattamenti con degli approcci terapeutici. Io le posso dire che mio figlio, ad esempio, uno dei miei figli, io poi ho avuto anche la cosa di averne due, il grande di 17 anni che è in carrozzina, poi essendo genetica mia moglie è portatrice, anche il secondo, insomma, era già nato quando il primo ha avuto la diagnosi. Professore, lei ci sta dando delle coltellate in diretta enormi, no? Perché ci rendiamo conto, mi perdoni se la interrompo, professore, ci rendiamo conto che la vita di sua moglie, insomma, Mario, non è facile. Quando è così, dice, Dio le ha messi alla prova. Sì, Dio l'ha messa alla prova. Eppure può sembrare strano, può sembrare, io devo dire veramente, forse la fortuna di riuscire a gestire questa situazione anche grazie all'associazione. Le posso dire, senza andare anche col rischio di apparire banale, le posso dire che la qualità di vita è migliorata da quando, ma non è facile, non l'avrei mai detto nell'anno in cui ora sono dei 10 anni che sono impelagato in questa cosa, e vi posso dire che si capiscono molte più cose. Cioè, io avevo prima un tipo di vita, voglio dire, che mi faceva inseguire cose molto inutili, e oggi quello che faccio, continuo a fare tante cose, li considero molto più utili, ho un senso delle cose molto più, diciamo, le cose più importanti, veramente importanti della vita, e veramente non ho timore a dire che la qualità di vita paradossalmente è migliorata. Ovviamente, insomma, c'è stato un lavoro molto duro, molto duro. Fasi molto difficili interiori, e avevo avuto la fortuna di superarlo, già di poter parlare così oggi, ecco, questo mi è già per me un grande traguardo. Ma guardi, chi fa il mio mestiere, chi fa il mestiere di Mario, il cantante, l'artista in generale, noi non siamo degli specialisti, quindi non possiamo dare né manualmente né col cervello aiuto a persone che, ahimè, hanno subito queste depauperazioni di vita in un modo o nell'altro. La cosa che possiamo fare è divulgare, dare un sollievo. Mario col suo violino, certo, rallegrare, cantando, ballando, eccetera, e quindi dare dei momenti, degli sprazzi di felicità a bambini, a portatori o diversamente abili, come si chiamano oggi, e io dare spazio a chi, voglio dire, voce non ha, e quindi la possibilità di divulgare quanto più possibile la conoscenza della patologia e la possibilità di guarigione a secondo i casi. A proposito di possibilità di guarigione, professore, l'ultima domanda, anzi la penultima. L'ultima domanda è questa: qualora ci fosse un caso neonato di questo tipo di patologia in un paese, nell'Interland dove viviamo noi, quindi Bagheria, Termini, zona di Palermo e provincia, ecco, ci sarebbe, a parte il vostro numero verde, che io poi adesso lo dirò non appena concluderò la sua telefonata, professore, se lei me lo permette, certo, ecco, dell'associazione, che è 800 943 3 333, ripeto, 800-943-333. Se vi doveste accorgere che in casa il vostro bambino dovesse avere degli aspetti non tanto chiari, bene, chiamate il numero verde, saranno a vostra totale disposizione, ve lo garantisco. Io conosco anche telefonicamente l'associazione di Roma e sono gente molto, molto affabile, disponibilissima a darvi tutte le informazioni che necessitano. La penultima domanda era questa, professore: dove sono i centri dove eventualmente questi bambini possono essere a priori seguiti? Allora, io le posso dire che per fortuna anche qui si sono fatti passi avanti, e mi contento di dire anche grazie alla nostra associazione che ha lavorato sui territori. In Sicilia ci sono due realtà operative molto, molto significative e molto evolute. Una è il Policlinico di Messina, per quanto riguarda dopo la fase dalla diagnosi alle prime fasi e al trattamento e all'assistenza. Quindi diciamo, il primo generica. Impatto, diciamo, sì. Sì, no, ma non solo il primo impatto, diciamo, anche l'assistenza per i controlli periodici, quindi se riescono a seguire i ragazzi sulla problematica generale. Quindi Policlinico di Messina. Policlinico di Messina, diciamo, la neurologia ovviamente come cosa. Poi c'è su Palermo, c'è la realtà, mi pare che sia l'ospedale Cervello, per tutta una serie di problematiche legate. Ha detto bene, professore, il cervello, sì. Ecco, che c'è una dottoressa di cui ora non mi sfugge il nome esattamente, però ecco che per tutte le problematiche respiratorie, ecco, è un centro di riferimento anche quello per tutte le problematiche respiratorie legate a questo tipo di patologie, perché insorge, essendo anche il diaframma, il muscolo, i polmoni, insomma, esatto, vengono poi danneggiati insomma, di conseguenza, quindi molti ragazzi poi prima di più, ma ora misura minore, sempre, ecco, hanno bisogno poi in età adulta di un ventilatore, insomma, quindi queste problematiche sono, e a Palermo c'è questa realtà presso l'ospedale Cervello, quindi eventualmente sono dei riferimenti, ma il numero verde eventualmente potrà dare dei suggerimenti. Tra l'altro rinvierà a una sede, perché in Sicilia abbiamo una sede sola, insomma, il CAD, Centro Ascolto Duchenne, dove opera una psicologa, e quindi eventualmente poi il numero verde smisterà su questa sede. Sicilia. Professore, l'ultimissima domanda, sì, prima di salutarla, intanto le volevo dire, almeno da parte mia c'è la massima disponibilità quando nell'incontrarla personalmente, se per voi ci sono difficoltà o meno nel fare, perché no, quando parte il 14 febbraio il discorso degli SMS, poi ne parleremo su quella puntata, sì, la possibilità di fare anche una manifestazione con cantanti, attori, ospitate varie, dove poter fare una raccolta fondi a favore della ricerca scientifica su questa patologia. Di questo ne parleremo in seconda battuta, magari ci fisseremo un appuntamento io e lei, vediamo cosa voi desiderate fare. Tantissimo, perché... No, non mi deve ringraziare, professore. Guardi, io e Mario, che è qui con me, abbiamo dei figli straordinariamente graziosi, belli in salute, almeno, grazie a Dio. Allora, anche i nostri sono belli. No, dico belli in salute, belli in salute, non per carità di Dio, professore, ma ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro. Io dico che tutti i bambini sono belli, tutti i ragazzi sono straordinari, non soltanto come dicono a Napoli, ogni figlio è bella papà e figlia mamma sua. Quindi i bambini sono tutti belli, tutti straordinari. Detto questo è un impegno che mi assumo io personalmente. Sono certo che molti amici miei artisti, non appena avranno opportunità di conoscere, che faremo una riunione prima per capire l'associazione, cosa si può fare, cosa non si può fare, cosa si può dire, cosa non si può dire, quindi compatibilmente agli impegni che intraprenderemo tra io e lei, visto che lei è il vicepresidente, ci faremo carico anche di questo. È una piccola goccia in un mare che è profondo, e però... anche tanto piccola, guardi, non è facile organizzare un evento, almeno noi lo abbiamo sempre fatto, continuiamo a farlo, e c'è tanta fatica quando c'è. Ma noi ce ne freghiamo della fatica, professore. Quando si parla di esseri umani, la fatica viene messa da parte, perché viene ripagata da un bel sorriso di un bel bambino. Quindi a noi basta quello, professore. L'ultima domanda, ed è questa, professore: un suo suggerimento dal suo profondo del cuore, dalla sua grande esperienza di padre colpito per ben due volte. Quando un padre e una madre si dovessero trovare di fronte a una situazione del genere, cosa lei consiglia? Come si devono muovere? Cosa devono fare per prima cosa, per non entrare nel pathos, nell'allarmismo più assoluto? Allora, purtroppo c'è una fase che non è controllabile, cioè io mi rendo conto che nei primi momenti insomma, veramente è una notizia pesantissima, però ecco, bisogna trovare, perché purtroppo poi patologie ce ne sono tante, allora bisogna trovare, secondo me, effettivamente un'associazione di riferimento, nel caso della distrofia diciamo, siamo noi. E lì si trova veramente il conforto e il confronto su cosa è meglio fare, e quindi, perché è importante non sbagliare le scelte, proprio non sbagliare, non entrare in una spirale, dico io, negativa, in un circolo vizioso per cui io mi affliggo e quindi il bambino si affligge. Quindi rivolgersi direttamente al numero verde che abbiamo dato, così. Il numero verde nel caso nostro sì, e nelle altre patologie ovviamente trovare le associazioni di familiari, laddove ci sono, perché purtroppo alcune malattie rare non hanno nemmeno questo conforto di avere un'associazione, sono talmente pochi che non riescono a essere in contatto. Volevi dire qualcosa al professore per salutarlo? No, non è niente, io sono letteralmente scioccato e sono a vostra completa disposizione con il mio violino, con diciamo il mio piccolo pubblico che mi segue a vostra disposizione. L'unica cosa che mi dispiace, oltre naturalmente che parliamo di bambini e tutti quanti i genitori, quando si parla di bambini, namodda ne am, voce del verbo, ammollare. Drammatizziamo un po'. Ma io, quando si parla di organizzazione per cercare di raccogliere fondi e gli artisti siamo a disposizione, l'unica cosa che mi viene in mente è che quella merdazza della SIAE i soldi li vuole lo stesso. E allora, ma perché a questo punto le associazioni non vi mettete d'accordo? Scrivete a questa merdazza di SIAE, che è l'unica azienda, c'è una famosa bip che va messa nel Mario mondo, azienda nel mondo inattivo, l'unica. Questi non danno soldi a nessuno, li vogliono. Io sto male con la febbre, mi vado ad esibire per portare un pezzo di pane a casa e rischio la vita durante la strada con la pioggia, quello e quell'altro. La SIAE gliela deve dare, per forza. Allora, posso dirle solo, maestro, nei casi di spettacoli con questi scopi, comunque fanno delle riduzioni, però non si vive, loro devono... a noi dicono che tutelino voi, sì, non ce ne danno soldi comunque... questi non ci danno soldi. E quindi, però è un buon suggerimento quello che ci ha dato lei, insomma, vedremo. Posso... professore, mi scusi signor Filippo, professore, voi dovreste chiedere soldi alla SIAE, chiederglieli. Noi dobbiamo fare questa manifestazione, vogliamo un contributo da voi. Vero, che mi fate lo sconto, pugni coi note che siete. Bip. Mario, mi perdone, no, Mario è molto. D'altronde ha anche ragione. Colorato. No, a parte colorato, ma insomma, la rabbia sale, professore, è normale. Però posso dirvi una cosa: io ho avuto il piacere, avendo orbitato in una organizzazione, chiaramente organizzazione non Onlus, ma grossa organizzazione, il Rotary Club. Ecco, adesso sono fuori e la cosa mi interessa poco. Però ho avuto il piacere di conoscere la direttrice regionale della SIAE, mi farò carico io personalmente di incontrare la presidente a Palermo per capire cosa eventualmente si può fare, perché se gli artisti non percepiscono un soldo, fanno tutto per affinché si riscuotano questi soldi, li si dà in beneficenza, non vedo per quale motivo dobbiamo pagare i tablò, non esiste, non in nessuna parte del mondo, mi creda. Visto lo sfogo, professore, Mario è così, Mario è un anfitrione, Mario è un... è giusto così. Lui si arrabbia nelle cose storte, come tutti noi artisti, noi siamo particolari. Professore, io prima di salutarla le volevo fare intanto un augurio, che è quello che i suoi figli possono al più presto, insomma. Tutti i bambini, ecco, tutti i suoi figli, sto parlando con lui poi è vicepresidente, quindi mi porti un grande abbraccio di cuore da parte mia e di Mario. Sì. Ai suoi ragazzi, ma a tutti i ragazzi dell'associazione. Un grosso abbraccio, sappi che la nostra radio, la mia trasmissione e le mani e il violino di Mario, cominciamo da qui, sono a vostra totale disposizione. Voi avete i nostri numeri, chiamateci, dopodiché, dopo il 14 sicuramente ci incontreremo io e lei, dottor Genovese, faremo il punto della situazione e faremo una bella serata, o su Palermo o anche qui nelle Madonie, non è un problema, l'importante è partecipare e sensibilizzare. Va bene, io la ringrazio, veramente siete persone di cuore. Professore, quelli di cuore sono i vostri ragazzi. Auguri a tutti. Noi gli possiamo regalare un sorriso, un abbraccio, ma perché no, anche della speranza, se Dio ce ne dà la possibilità. Infatti, anche noi facciamo questo, infatti, ci uniamo a voi. Grazie, professor Genovese. Buongiorno. Le auguro buon lavoro, ne ha tanto purtroppo da fare. Grazie. Buon lavoro a lei, in bocca al lupo. Arrivederle, grazie. Linea alla regia. Get down. a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time. Good morning and good night. I'll wake up at twilight. E allora, il brano che state ascoltando, se il fonico mi abbassa un po' la musica in cuffia e anche il mio microfono poco poco, ecco, se no andiamo in distorsione. Dicevo, il brano che state ascoltando è straordinario. Che, qual è il titolo di questo brano, Mario? Astratango. Astra, la città dove vivi tu. Sì, una dedica che ho fatto a questo bellissimo paesino sul mare, a 11 chilometri da Palermo. Allora, Mario, i tuoi futuri appuntamenti nell'immediato quali sono? Quello immediatissimo è quello di andare a mangiare. Questo è il primo appuntamento, se non si mangia non si può suonare. Poi? Il secondo, devo andare dal meccanico a ritirare la macchina. Ah, ecco, il terzo? E stasera devo scegliere dei brani perché sarò ospite a casa Minutella, dove è stato l'altro giorno anche ospite tornatore, e devo cercare un po' di filmati di qualche anno fa, quelli che ho fatto in Rai, televisione, Canale 5, eccetera, eccetera, per creare l'atmosfera. Allora, io vi lascio sulle note di questa stupenda musica, questo Astratango, dedicata alla città che ospita, dove lui vive e vegeta anche, se sì, vogliamo. Vegeti. Una raccomandazione lo faccio in famiglia: quando arriva Mario, fatelo mangiare subito, perché sennò sarà un casino. Insomma, lui è un po' come tutti gli artisti, siamo un po' sclerotici, ecco, ma poi siamo in fondo, ma molto in fondo dei buoni. Allora, io intanto ti ringrazio per la tua disponibilità verso questa Onlus, e come hai sentito la viva voce del professor Genovese, insomma, sono genitori che hanno in famiglia questi tipi. Guarda, di... è atroce. Ci ha molto rattristiti. La vita continua, cercheremo sicuramente di dare un aiuto a queste persone. Intanto ti ringrazio io a nome dell'associazione. Grazie. E ti auguro un'estate stupenda, all'insegna sempre dei grandissimi successi che come tu hai raccolto. Come quella dell'anno scorso, mi basta. O come quella di 2 anni fa, va bene. Chi si accontenta gode. Sì. Chi si accontenta gode. E volevo soltanto dirvi, l'appuntamento della differita di questa puntata è domenica, poi subito dopo in repliche podcast carta e penna, mi raccomando andateci a sentire e seguiteci sempre con tanto affetto. Un grazie alla parte tecnica, alla nostra Sharawi, psicologa di fama internazionale, che oggi ha soffrito benissimo, devo dire, la mancanza di Sharawi, il nostro fonico. E un ringraziamento particolare agli sponsor senza i quali questa trasmissione non potrebbe andare in onda, e un grazie di cuore alla Olus, al presidente genovese che avete appena ascoltato in diretta radiofonica. E che altro dirvi? Io vi auguro tantissima salute, che è la cosa più importante in questo mondo, un buon weekend all'insegna di sole, in modo tale che possiate fare le belle passeggiate che vi distendano, ecco, nel senso di farvi star bene fisicamente, perché mens sana in corpore sano, dunque sarà un buon viatico poi per riprendere lunedì alla grande il nostro lavoro. Da parte di Filippo Glorioso e Mario Renzi, un arrivederci, a risentirci. Ciao. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso.